Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi, 17-8 minuti per la precisione, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Intanto vi anticipo che siamo in diretta da Torino, dalla sede del grattacielo del gruppo Intesa San Paolo, perché oggi è iniziata l'appuntamento Sharing Italy. Detto così vuol dire poco, in realtà significa mettere assieme le imprese, casi di eccellenza e soprattutto storie di eccellenza di imprese provenienti da ogni regione italiana per due giorni di incontri, dibattiti, tavoli di lavoro. Ve ne sono molti organizzati negli ultimi piani del grattacielo, con sei parole chiave, quindi esplorare, sperimentare, capire, comunicare, cercare e valorizzare, con una formula che è quella che insomma stiamo cercando di proporre anche noi quando vi arriveremo nel nostro appuntamento Futuro o Paura, dei cosiddetti TED Talks. È una formula americana, vuol dire che ogni relatore ha un spazio molto contingentato di 18 minuti al massimo per raccontare idee, esperienze, visioni che vale la pena diffondere. Di questo parleremo fra un attimo. Vado però intanto subito alla giornata economico-finanziaria. Vi anticipo che toccheremo altri due temi. In primo luogo la soluzione che è arrivata a Trani nei confronti dell'agenzia di rating Standard & Poor's e dei tre imputati per manipolazione del mercato. Adesso ne parleremo più avanti. L'accusa era quella, nel periodo tra maggio 2011 e gennaio 2012, di avere artatamente e volutamente dato dei report negativi sull'affidabilità del debito italiano in modo da fare calare, o meglio aumentare, i tassi di rendimento e lo spread. Accusa ritenuta infondata, il reato non sussiste secondo il giudice. C'è chi ha anche accusato il PM di Trani di un eccesso di protagonismo nella richiesta, perché insomma la procura di Trani che va a giudicare col massimo rispetto insomma l'attività che noi abbiamo spesso giudicato in maniera critica, ma sull'operatività dell'agenzia di rating, ecco, accusare di volutamente di avere manipolato il mercato, deve avere anche gli strumenti poi per sostenere questa accusa. Comunque così non è stato, e tutti assolti, sia l'agenzia di rating che i tre manager, tra cui c'era il presidente mondiale di allora, imputato, due anni richiesti per il presidente. L'altro elemento, l'altro tema di cui ci occuperemo è il rischio dazi. Qui non è un'analisi così retorica sull'atteggiamento di Trump. Già nei mesi scorsi avevamo evidenziato come gli Stati Uniti fossero particolarmente irritati per il mancato rispetto, secondo loro, di un accordo con l'Unione Europea per quello che riguardava le esportazioni di carne statunitense in Europa. Dico subito, che visto che le agenzie erano un po' confuse e fuorvianti su questo, che non si tratta di carne con gli ormoni, cioè l'accordo era per una carne, come si dice in gergo, hormone free, senza ormoni. Gli Stati Uniti dicono che l'Europa non ha rispettato questo accordo di 40.000 tonnellate in più di esportazione verso l'Europa, facendo entrare altri soggetti, Argentina, Brasile e quant'altro, e quindi, come anticipato dal Wall Street Journal, il rischio ritorsione è molto alto, perché dovrebbe coinvolgere sia alcuni produttori di motocicli, anche la Piaggio italiana, sia alcuni produttori dell'agroalimentare francesi. Ma poi, come anticipa Wall Street Journal, a rotazione questi dazi del 100% andrebbero a toccare a rotazione, dicevo, anche altri settori dell'agroalimentare, incluso l'agroalimentare italiano, che ha una quota del 10% di export negli Stati Uniti. Stiamo parlando di 3 miliardi e 800 milioni di euro esportati come agroalimentare l'anno scorso nel mercato a stelle e strisce, e di questo ci occuperemo. Tra l'altro su questo è intervenuto anche poco fa il neopresidente di Confagricoltura, e ascoltiamo un primo commento su questo e poi partiamo con le altre notizie in breve, a partire proprio dai mercati finanziari. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, poco fa abbiamo raccolto intanto complimenti per la neonomina avvenuta oggi di Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura. Le preoccupazioni sul rischio dazi e ritorsioni. La risposta non è quella. Noi dobbiamo cercare di ripartire da quelle che sono ovviamente le contrattazioni, perché il vero problema è stata la caduta dell'Uruguay Round a suo tempo. La caduta del WTO di fatto ha distrutto il sistema dei commerci internazionali, ha reso possibile di fatto la contrattazione bilaterale, e quando si vanno a fare contrattazioni bilaterali poi ci si trova che nel momento in cui uno dei due decide quali sono le regole di accesso a quel mercato, diventa poi difficile partecipare a quel mercato. Io credo che qualsiasi forma di chiusura non faccia bene al settore agricolo italiano. La nostra è un'agricoltura che va nel mondo, noi siamo esportatori netti e soprattutto siamo conosciuti per un Made in Italy. E arriveremo al tema nella seconda ora del programma. Intanto, per quello che riguarda le altre notizie in breve, partiamo dall'economia internazionale. Rivisto a rialzo, come già annunciato due giorni fa, il dato sul PIL americano nel quarto trimestre più 2,1%, leggero rialzo rispetto al 2 atteso. Il dato invece è peggiore delle attese per quello che riguarda i sussidi alla disoccupazione, sono calati ma solo di 3.000 posti, sono scesi, diciamo, ci si attendeva un calo di almeno 13.000 sussidi, invece sono stati solo 3.000 in meno. Restiamo in tema internazionale, perché mentre il governo britannico, da quello che abbiamo capito oggi dal cosiddetto libro bianco sul Great Repeal Bill, la legge che è destinata a revocare la giurisdizione delle norme delle corti europee anche sul Regno Unito, Theresa May vorrebbe una transizione morbida e stabile verso la fine della legislazione dell'Unione Europea in Gran Bretagna. Le posizioni però, come abbiamo raccontato anche ieri, sono molto articolate. Hollande è più duro, la posizione tedesca alterna elementi di durezza e elementi di maggiore apertura. Questo bill poi dovrà essere sottoposto al Parlamento di Westminster e dovranno essere attuate poi create le condizioni per la sua attuazione. Tra l'altro tutti i ministri sono impegnati a delineare i piani specifici per il ripristino della piena sovranità. Questo atto, questa norma, andrà a cancellare il European Communities Act, che è del 1972, quello che poi permise l'ingresso della Gran Bretagna nell'Unione Europea. Il Premier Gentiloni oggi era a Gorizia, Monfalcone, per la consegna della nave Majestic Princess nei cantieri navali di Fincantieri, e ha detto: insomma, la decisione britannica l'accogliamo comunque con rammarico. La giornata di ieri è stata dominata, come sappiamo, dalla decisione che era semplicemente il frutto inevitabile della libera e democratica scelta del popolo britannico, dalla decisione di avviare il percorso di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Certamente non una decisione che noi italiani e noi europei abbiamo accolto con gioia, tutt'altro. Abbiamo purtroppo accettata come una decisione legittima e democratica, ma certamente con rammarico. Veniamo all'Italia, partiamo dalla borsa, più 0,30% in questo momento Milano, con Francoforte che fa più 0,36, Parigi più 0,40, Londra invariata a meno 0,1 e Dow Jones più 0,40, euro su dollaro di nuovo sotto quota 1,08, siamo 1,0730, tra i titoli segnalo Tenaris più 3,60, Saipem più 1,70, Buzzi più 1,5, Leonardo più 1,30 come Prismian, Eni più 1,20, Ubi più 0,80. Fronte opposto invece vede in calo Biperbanca meno 1%, Iux Antropotè meno 0,70, A2A meno 0,70%. Visto che siamo qui nel grattacielo di Intesa San Paolo, segnalo che il titolo di Intesa San Paolo è variazione zero, l'avrà fatto apposta. Buone le notizie invece che arrivano per l'asta di oggi dei BTP a 5-10 anni, tassi in calo. Il Tesoro è riuscito a collocare tutti i 4 miliardi e 750 milioni di euro di BTP a 5-10 anni, praticamente per prestare soldi al nostro paese con scadenza a 5-10 anni. Basta, il mercato si accontenta, diciamo così, dell'1,04% a 5 anni come rendimento lordo annuo e l'1,11% in calo dall'1,11% del mese scorso, mentre per i 10 anni è il 2,25%, anche qui in calo dal 2,28% del mese scorso. Buona la domanda, una volta e mezzo l'offerta per i BTP a 5 anni e 1,25 per quelli a 10 anni. Poi arriveremo a delle indicazioni date oggi dal Premier Gentiloni, che dice insomma finalmente l'Italia vede segnali di ripresa. So già che questa cosa farà arrabbiare, ma in realtà, analizzando poi l'andamento del credito nel medio e lungo termine, qualche elemento arriva anche, attenzione, sono sempre dati aggregati, però qualche elemento di cautissimo ottimismo o speranza arriva. Vorrei andare invece ai dati e chiudere prima di partire con il primo tema, con i dati diffusi oggi dall'Istat, dal Ministero del Lavoro, dall'INPS e dalla INAIL, sull'andamento dell'occupazione. Nel quarto trimestre del 2016 l'occupazione è aumentata di 478.000 posti di lavoro, frutto di 345.000 posti in più a tempo indeterminato e 133.000 posti a tempo determinato. Per quello che riguarda l'occupazione è calata, e non è una buona notizia, fra la fascia 15-34 anni, invece è aumentata per la fascia sopra i 50 anni. E infine le pensioni, il dato dell'INPS, sono a inizio 2017 risultavano in essere 18.029.590 pensioni, con una forte concentrazione nelle classi basse, lo rileva l'INPS, nel senso che il 63% delle pensioni erogate ha un importo inferiore ai 750 euro. Questa percentuale per le donne raggiunge il 76%, in molti casi sono pensioni appunto anche di vedove. Però nel 2016 ci sono state 1.048.000 pensioni nuove, di cui oltre la metà, 53%, di natura assistenziale, per un importo totale pari a 9,5 miliardi di euro. Vale la pena ricordare che negli ultimi 5 anni il numero delle pensioni è calato di quasi il 3%, e anche il rapporto tra spesa pensionistica e PIL italiano è in calo all'11,3% nel 2017 contro l'11,8% del 2014. Certo che nel 2004 la pressione, cioè la componente di pensioni sul PIL, era più bassa, era al 9,4%. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul primo tema, e quindi Sharing Italy, il tentativo di mettere assieme esperienze, messaggi, idee e anche appunto, come dicono gli inglesi, best practice, organizzato dal gruppo Intesa San Paolo. L'obiettivo è quello, chiaramente, di, immagino, stringere i bulloni ancora di più con il mondo delle medie imprese, non solo delle grandi. E parliamo allora di Sharing Italy e della tipologia con cui avvengono questi interventi. Allora, ne parliamo qui negli studi di Radio 24. Innanzitutto ringrazio il dottor Stefano Barrese, che è responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo. Buonasera. Grazie, Barrese. Grazie, buonasera a tutti. Che vuol dire, non dico tutti, 11 milioni di clienti, se non ricordo. Sì, 11 milioni di clienti, 3.400 filiali, una copertura molto capillare del territorio nazionale. E perché appunto sono 10 milioni di famiglie e circa 750.000 tra imprese e retail. Sì, 750.000, molte delle 750.000 sono piccolissime, ma 200.000 di queste sono proprio l'ossatura, che diciamo sempre, della piccola e media impresa italiana. Quindi diciamo da 2 milioni e mezzo, 1 milione, 2 milioni e mezzo, fino a 350 milioni di euro di fatturato. E accanto a Barrese ringrazio anche Sofia Borri, fondatrice di Piano C, una delle relatrici oggi degli interventi. Non potevamo sceglierli tutti, ne abbiamo presi un paio. Grazie anche a lei, grazie anche a Paolo Carli, che è amministratore delegato di Hanro. Buonasera, sì. Spero di pronunciarlo bene. Gruppo specializzato nelle realizzazioni in marmo, 80% di export. Avremmo potuto portare anche alcuni casi del mondo vitivinicolo, però siccome ci sarà il Vinitaly a brevissimo, cioè, respiriamo un attimo, poi parleremo di tutte le problematiche e dei casi di successo, delle problematiche del mondo vitivinicolo. Ci mancherebbe anche del rischio bolla su alcuni prodotti. Qualcuno mi ha scritto sulla vicenda del Prosecco, ma insomma sì, c'è quello, ne abbiamo parlato molte volte. Ma torneremo a parlare nel corso di Vinitaly. Invece, con la massima obiettività possibile, invece vorrei capire con lei, Barrese, al di là, diciamo, degli incontri, del B2B, dei tavoli di lavoro, perché un'iniziativa, diciamo, che ha assunto la forma di T-Talks, come ricordavo, cioè 18 minuti massimo di intervento per raccontare un'esperienza, qual è la cosa in più che vorreste ottenere rispetto a un normalissimo incontro con i vostri clienti o potenziali clienti? Sì, allora l'incontro con i potenziali clienti o con i nostri clienti lo facciamo quotidianamente e già questo è l'elemento con il quale noi arricchiamo noi stessi, i nostri contenuti di offerta, perché questo nasce proprio dalla conoscenza, dal vivere insieme quello che è il rapporto quotidiano, no? Dell'essere impresa e dell'essere banca. Quindi mi piace sempre dire che le offerte che facciamo ai nostri clienti, il fatto che li seguiamo in un certo modo, nasce proprio perché li ascoltiamo e quindi ascoltiamo i loro bisogni. Ci piaceva l'idea di immaginare una o due giorni in cui provavamo a mettere insieme non soltanto la banca con il cliente, ma i clienti fra di loro, provenienti da tante parti diverse dal territorio, provenienti da settori diversi, anche molto distanti gli uni dagli altri. Ma quello che stiamo apprendendo negli ultimi anni e fa parte dell'evoluzione che sta avvenendo nell'ecosistema più generale è proprio come ci sia una stretta interrelazione fra le parti, cioè i settori tendono sempre di più ad assomigliarsi e molto è dovuto, sarà un po' di moda ma in realtà è così, molto è dovuto alla trasversalità del digitale. E quindi voleva essere Sharing Italy una o due giorni in cui insieme con i clienti proviamo a immaginare quello che potrebbe essere il futuro prossimo. E grazie a questo possiamo anche immaginare come la banca può aiutarli e può aiutare in generale il mondo dell'imprenditoria e dell'economia reale. Vediamo un attimo, poi arriveremo, diciamo, anche alla parte più di idee, però al credito bancario, perché molto ne abbiamo raccontato e abbiamo anche raccontato in maniera critica un'erogazione del credito bancario complessivamente data, mi riferisco ai dati ABI, che vedeva in questi anni crescere un pochino il credito alle famiglie, quindi mutui, ma sempre col segno meno il credito alle imprese. Sappiamo benissimo che quando tu hai 180 miliardi, insomma, contati male, di sofferenze bancarie nel sistema, lorde, è difficile che poi tu voglia imbarcare altri prestiti alle imprese, ma allo stesso tempo l'obbligo, diciamo, della banca e anche la missione quasi morale della banca, o perlomeno economica, è quella di distinguere tra credito e credito, altrimenti, insomma, tutti saremmo capaci di erogare credito. I dati che voi avete sui finanziamenti oltre 18 mesi, perché li cito? Perché sappiamo che la distinzione, adesso non voglio andare nel tecnico, ma un conto è finanziare il circolante. L'imprenditore che viene ti chiede soldi perché ha dei fornitori da pagare, deve pagare la cassa, insomma. Altra cosa è finanziare piani di investimento nel medio termine, ecco perché mi interessano i finanziamenti oltre 18 mesi. Almeno quelli, dal vostro punto di vista, sono in crescita? Il mio osservatorio, e quindi l'osservatorio della banca, sono in crescita, in forte crescita. Sono in crescita, sono stati l'anno scorso, abbiamo fatti 48 miliardi di questi oltre 18 mesi, abbiamo fatti 41 l'anno precedente, 27 l'anno precedente ancora. Nei primi due mesi dell'anno ne abbiamo fatti complessivamente 8, alle imprese 5, e il trend di crescita continua a essere un trend a due cifre, in ordine del 20-23%, per cui il nostro osservatorio è un osservatorio positivo ed è il motivo per cui siamo qui a disegnare il futuro. Dico anche che Credit Crunch, di cui si parla tanto, secondo me è un qualcosa che può essere stato parte di un momento storico, un momento legato alla crisi, quando il fatturato delle aziende scende, l'ultima cosa che un'azienda fa, e qui poi abbiamo degli imprenditori, possiamo chiedere anche a loro, è immaginare di chiedere credito. Molti coraggiosi hanno rivisto chiaramente anche le loro decisioni di investimento e alcuni lo hanno fatto e sono oggi qui con noi, imprenditori che hanno in quel contesto internazionalizzato, innovato e quindi chiesto credito a medio e lungo termine, e la banca anche in quel momento, perché l'ha sempre fatto, ha erogato credito, ma non dimentichiamoci che nel 2008 avevamo complessivamente 800 miliardi di impieghi, quindi è raddoppiato in 8 anni l'ammontare complessivo degli impieghi alle imprese. Quindi bisogna anche vedere da dove si parte rispetto a dove siamo oggi. Ecco, Barrese, vorrei utilizzarla per un attimo come, diciamo, si dice tutor, no, nella rete, tutor per gli imprenditori, mi guarda un po' sorpreso, tutor per gli imprenditori in ascolto, visto che lei stava citando percentuali di quote di fatturato appunto da piccole imprese fino alle medie, gli errori più frequenti che vede fare, complessivamente dato quando si chiede un credito alla banca, e invece dall'altro, sull'altro fronte, come voi, quali sono gli elementi che a voi fanno dire beh, a lui lo concedo e a un altro imprenditore con un profilo simile, ma almeno dimensionalmente come settore d'attività, invece no? Allora, sicuramente sono i piani di investimento, quindi la chiarezza su a cosa serve il credito. Quindi quella è la prima cosa. Un imprenditore che ha chiaro a cosa serve, quindi dove va destinato, un business plan chiaro, perché non è scontato che ci sia. Non è scontato che si entri in azienda e l'imprenditore abbia un business plan, cioè dove vuole andare nei prossimi 5 anni. Questa è una premessa importante, perché se si entra in azienda e a questa domanda l'imprenditore non ha un business plan, è il primo punto di domanda. Poi bisogna entrare in azienda e guardarla, perché la prima cosa che bisogna fare è guardare le aziende, passeggiare con l'imprenditore all'interno dell'azienda e vedere il contesto in cui ci si trova. Perché è la prima cosa che rappresenta già la qualità dell'imprenditore. E poi chiaramente fondamentale è conoscere il settore in cui quell'imprenditore si trova, perché sennò altrimenti non si è nemmeno in grado di capire le dinamiche verso le quali sta andando quell'impresa. E poi chiaramente le decisioni, una volta che vengono prese, non è un tema di coraggio, perché quando uno ha un'analisi dettagliata di quello che ho appena detto, non è che ci vuole coraggio a fare credito a un imprenditore che risponde positivamente a tutte queste caratteristiche. Mi vorrei concentrare nel finale sull'ultima parte, nel senso, le prime due sono chiare, piani industriali credibili, cioè che cosa servono questi soldi, e piani industriali anche credibili in un tempo medio, cioè 5 anni, non a 1 anno e 2 anni. L'ultima parte che riguarda più voi è la capacità di analisi di un settore. Adesso noi abbiamo volutamente preso due imprenditori molto molto diversi tra di loro come dimensioni, come settore, come tutto. Però, ed è chiaro che questo in un paese che ha tantissimi, ha 156 distretti industriali di altissima specializzazione, significa, non dico avere 156 persone in banca che conoscono la differenza tra il distretto della sedia, quello del tondino, quello della ceramica, quello del vitivinicolo, ma andarci un po' vicino. Negli anni passati la critica è stata fatta proprio su questo, a dire voi, non voi solo Intesa San Paolo, ma complessivamente il sistema bancario si era, per varie ipotesi, penso a un vostro concorrente anni fa, la Banca Universale, ma insomma si era impoverito di competenze sul territorio, per cui tu non riuscivi più a valutare, visto che qua ho Paolo Carli che si occupa di marmo, tra un imprenditore del marmo che ha un vero progetto e un imprenditore del marmo che in realtà cerca solo di sopravvivere per le mancanze di competenze. Cosa avete fatto in questi anni per supplire un gap o comunque mantenere una conoscenza, un know-how, come dicono quelli che hanno studiato? Allora, sicuramente abbiamo investito tantissimo proprio nell'analisi dei settori. Non è un caso che come banca proprio su quest'ambito, cioè, lo dico da solo, ma in realtà fa parte ormai di l'analisi dei distretti, sì, sta arrivando lì. Direi abbiamo avuto che, ospite Gregorio De Felice. Infatti, direi che questo rappresenta un elemento distintivo della banca, ma dobbiamo vedere questo aspetto come un elemento distintivo di arricchimento delle persone che poi sono sul territorio. Cioè, il fatto di aver investito continuamente in tutti questi anni su un'eccellenza che era la capacità del nostro ufficio studi di essere concreto nell'analisi del territorio, dei settori, è un qualcosa che poi va a beneficio delle nostre persone sul territorio, che arricchite di questi elementi hanno un'interlocuzione con il proprio partner, perché l'imprenditore è un partner, il cliente in questo caso, naturalmente da una posizione che non può essere quella dell'imprenditore, che è un uomo che conosce nei dettagli il suo business, ma di sicuro è una persona in grado di supportarlo da un punto di vista finanziario. Anche strategico, sentiamo in elementi, per esempio, di finanza straordinaria, perché questo consente al nostro collega sul territorio di poter immaginare l'impresa non soltanto in una logica verticale di settore, ma anche orizzontale. Ed è il motivo per cui i nostri colleghi non hanno una specializzazione su un singolo settore, ma normalmente includono anche delle competenze più trasversali. Ultima domanda, perché mi arriva dagli SMS e da WhatsApp, le garanzie che chiedete, quindi cerco di rielaborarla conoscendo anche gli ascoltatori. Sì, ok, voi erogate credito, ma lo erogate a chi vi dà tali garanzie da mettervi al riparo, diciamo, dalle avversità. E invece delle volte noi lamentiamo, abbiamo ogni venerdì, lo avremo anche domani, una startup. Raramente le startup sono state finanziate nel mondo bancario, quelle perlomeno che abbiamo noi, lei magari mi smentirà, ma io non dico che la banca debba prendersi il rischio della startup. Esistono incubatori, esistono business angels, esistono anche fondi, diciamo, di carattere regionale, fondi per lo sviluppo di carattere regionale e nazionale. Però andiamo anche non sulle startup, cioè, non è che chiediate delle garanzie così alte che poi insomma chi ottiene il credito lo fa, perché mette impegno tutto tranne che la suocera. Allora, il tema delle garanzie io direi è un luogo comune, poi chiaramente non si può escludere nulla, no? Però abbiamo anche degli imprenditori qui, un esempio per tutti è quello che per esempio la banca sta facendo dal punto di vista del finanziamento sugli investimenti 4.0, quello che abbiamo fatto lo scorso anno, per esempio per finanziare gli investimenti legati al superammortamento. Addirittura in quei casi noi finanziamo il 100% dell'investimento, e finanziare il 100% dell'investimento implica che non c'è nessun equity e non c'è nessuna garanzia. Lì l'unica garanzia è l'investimento in un qualcosa che sappiamo che è propedeutico allo sviluppo dell'azienda. Allora, il tema è, torno a quello che dicevo all'inizio, il tema è avere un piano. Molto spesso se non c'è un piano probabilmente è credito che non andrebbe fatto, perché significa che è un credito che sa più di assistenza che di sviluppo. Di mantenimento. Perfetto. In vita. Che... Senta, qual è la cosa che più le è piaciuta di questi TED Talks? Perché adesso vorrei andare invece al format che noi abbiamo sposato, lo dico a chi mi sta scrivendo, ma intervistiamo anche i banchieri e i bancari, nel senso non è che possiamo parlare solo di imprenditori, poi uno le domande le fa, ma non, cioè, sono, non ho ancora un ostracismo e un veto nei confronti del mondo bancario in questo programma, però qual è l'elemento che più le è piaciuto di questi TED Talks? Poi adesso arriviamo anche alla parte, diciamo, del format vero e proprio. Allora, sicuramente l'elemento che mi è piaciuto, come dicevo, è proprio la trasversalità, cioè la contaminazione. Il sentire parlare questa mattina come primo intervento un filosofo già dà l'idea di quello che è il contesto. Un filosofo che ragiona sull'evoluzione e quello che probabilmente ci consente di mettere la testa su un momento storico unico che stiamo vivendo, positivo, come ci diceva stamattina il filosofo, e non negativo, come tante volte si vuole far trasparire, ma di sicuro di grande trasformazione, e quindi che rende il momento che stiamo vivendo difficile da vivere, ma sicuramente estremamente, lasciatemi dire, interessante, e che apre una prospettiva importante per chi lo vuole cavalcare, che sia la banca, che sia chiaramente l'imprenditore, che siano le persone comuni. Sì, un momento di rivoluzione, di trasformazione, di rottura di paradigmi, quindi ci sono anche morti e feriti in questo Barrese, però diciamo, piangersi addosso non serve a nulla, e soprattutto, come spesso ricordiamo, i periodi storici uno non li sceglie, è meglio se però li guidi e li cavalchi piuttosto che li subisci. Chiedo a Sofia Borri e Paolo Carli ancora qualche minuto di pazienza, perché ho il meteo e la pubblicità, e poi cerco di capire intanto che cosa avete appreso anche voi. E che rapporto avete avuto con la banca in due settori, ripeto, così diversi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal grattacielo di Intesa San Paolo a Torino. Per la prima giornata di questa Sharing Italy. Allora, dico un paio di cose rapidissime a chi scrive. Tutte le idee sono più che accette, ci mancherebbe, però ogni tanto anche partire subito col pessimismo. Il realismo è una cosa, il pessimismo è quello che ti fa dire: io la partita neanche la gioco, perché tanto l'arbitro è comprato. Sto per fare una battuta, però sono a Torino, sto zitto, l'arbitro è comprato, e qua, non ha senso. Cioè, intanto uno la sfida la gioca. È vero, lo ripetiamo da anni, e spero che appena partiranno questi T-Talks di Radio 24 riusciremo a spiegare in maniera ancora più articolata. È vero che adesso, rispetto a prima, le condizioni per l'erogazione di credito sono più difficili da un lato, con tassi di interesse però molto più bassi, ed è vero che questa volta bisogna essere bravi anche nello scritto e non solo nell'orale, che è un po' una tendenza di questo paese. Vale anche per alcuni imprenditori non abituati nel passato, abituati a ricorrere troppo al credito bancario e a sottocapitalizzare l'azienda, diciamola tutta, e magari nemmeno in alcuni casi così trasparenti nel patrimonio complessivo. E qui mi fermo. Dopodiché, il fatto che qualcuno mi scriva ma sono tutte fregnacce, o uno la può pensare come vuole, ma guardate che se siamo d'accordo che questa rivoluzione, la quarta rivoluzione industriale, si basa sulla conoscenza, sul valore aggiunto che sai dare, non semplicemente sull'investimento, anche sull'investimento in macchinari, processo e prodotto, vedi la digitalizzazione, vedi il piano 4.0, ma non un investimento solo per il macchinario più veloce, ma per il macchinario più intelligente che dialoghi. Allora, se si basa sulla conoscenza, se l'operaio o chi prenderà il suo posto sarà sempre più specializzato, forse è il caso di ricordarsi che la conoscenza si crea attraverso l'esposizione, la contaminazione. Questo dico, poi uno può ritenere che sia tutta fuffa, ma ascoltare anche casi e esperienze di qualcun altro è un modo per aumentare la tua conoscenza. Oppure uno può continuare a stare nel salotto, a mandare insulti e criticare il mondo, vabbè, poi facciamo risentire anche vabbè, come si chiama, io ogni volta mi dimentico del personaggio di Crozza, proprio se ce l'avete me lo date dopo. E invece vorrei chiedere a Sofia Borri cos'è Piano C, perché è un se ho ben capito un co-working per le donne in maternità, e oltre a raccontarci il suo progetto, se ci racconta anche cosa ha preso oggi. Piano C è il primo co-working che ha affiancato alle scrivanie condivise uno spazio di conciliazione, con uno spazio dove chi affitta la scrivania può lasciare il proprio bambino. Cioè, co-working vuol dire che intanto tu affitti una scrivania. Sì, hai uno spazio di lavoro condiviso con altri, di solito freelance, puoi usarlo in maniera molto flessibile, quindi abbatti i costi, puoi prendere carnet da mezze giornate, quindi non impegnare una spesa di un ufficio fissa, e poi diciamo che incontri altre esperienze professionali che sono di ispirazione, di contaminazione, che ti possono anche aiutare nello sviluppo del tuo business. Noi abbiamo aggiunto una cosa non particolarmente strana, ma prima di noi non l'aveva fatto nessuno, cioè uno spazio dove poter lasciare il proprio bimbo o la propria bimba con una puericultrice. Questo è qualcosa che serve in primis alle donne, perché sono le donne che una su quattro dopo la maternità perdono il lavoro, perché sono le donne che una su due in Italia non lavorano, quindi è vero che esiste un tema del fatto che alle donne è chiesto di scegliere tra vita e lavoro, spesso, anche a donne che hanno un talento, che hanno studiato, che hanno competenze, che hanno voglia di lavorare. Di oggi mi sono portata a casa il filosofo Bolelli, stamattina ha detto una frase che mi ha colpito molto, che la mente binaria, quella che porta alla logica degli schieramenti, è patologia. E noi siamo nati con l'idea che... No, lo rido perché okay. Ho molti ascoltatori patologici. Prego, prego. Noi siamo nati proprio con l'idea che vita e lavoro non sono in guerra, che già la parola conciliare è sbagliata, che il modello di 50 anni fa in cui uno stava a casa, l'altro lavorava, si andava al lavoro alle 9, si usciva tutti alle 16, alle 18 è superato, bisogna trovare un altro modo, e in questo nuovo modo non immaginare la propria vita come binaria, in cui uno deve scegliere tra una parte e l'altra, in realtà aiuta a rimettere nel mercato del lavoro risorse importanti. Se le donne rientrassero, non in massa, ma in una buona percentuale nel mercato del lavoro, il PIL crescerebbe. Cioè, proprio è una risposta alla crisi, 7%, mi dice il banchiere, che ne sa. E quindi c'è già una ricchezza sommersa che nessuno vede. Senta... Come fate i soldi, però, nel senso, perché voi fornite un servizio che non è solo co-working, ma è un co-working pensato in maniera specifica per le neomamme, sì. Quindi con quelle che si chiamerebbero facilities, con delle agevolazioni, diciamo, anche per le neomamme. Che risposta avete e che finanziamento? Non voglio anticipare la puntata di domani sulla startup, però insomma, allora, intanto, e chi vi ha finanziato? Non è solo per le mamme e per le donne, ci sono anche dei papà e degli uomini. Giusto. Perché non è un no, ma ho sbagliato detto. Io. Anzi, benvenuti, gli uomini sono alleati, dovrebbero essere. Finché c'ho lavoro lo tengo, però grazie no, per aver fatto ci uno sono spazio. Tanti freelance che hanno deciso di usare Piano C e i servizi di conciliazione, che li usano anche quando i figli crescono, non solo neo mamma, perché poi a Natale la scuola chiude, perché d'estate la scuola chiude, quindi servizi servono sempre. E intanto a noi è successa una cosa che entra nella logica del contaminarsi e del cambiare, che vivere di solo quei servizi non era sufficiente. Con il co-working non si fa il business del secolo, qua lo dico. Abbiamo integrato i servizi legati proprio al co-working con invece servizi legati al lavoro. proprio perché noi intercettavamo per esempio percorsi di reinserimento lavorativo, di ridefinizione del percorso professionale. Tante donne che espulse dal mercato del lavoro avevano voglia di rimettersi in gioco e anche di fare un piccolo investimento formativo e di orientamento a ridefinirsi professionalmente. La solitudine quando si è disoccupati è la cosa peggiore, ti fa pensare che non sei più capace di fare niente, a maggior ragione se hai un bambino piccolo, e quindi pensi, anche se ho un curriculum bellissimo, chi lo guarda? Finisco subito in fondo alla lista. E a volte uscire dall'isolamento, rimettersi in rete, dotarsi di strumenti che ti permettono di fare la mappa del tuo talento, che ti ricordano chi sei, cosa sai fare, cosa vuoi fare, magari anche piccoli corsi di formazione noi facciamo. Quindi abbiamo allargato, il coworking è diventato un po' un laboratorio dove aiutiamo in sintesi l'incontro tra donne e lavoro. Funziona, si fa fatica, diciamocelo, domani incontrerete una startup, magari fa meno fatica di noi. Sicuramente per noi è l'infa quanto la finanza e il credito, la passione, l'idea che non possiamo fare un'altra cosa se non questa e che vogliamo un po' cambiare le cose. Ecco, io aspiro ad arrivare ad essere un'impresa più solida, più forte, che non è nella fase di start-up. Però ci vuole ancora un po'. Non posso aprire troppo il tema, però lo dico a chi sta scrivendo. Attenzione che è vero che la solitudine, è chiaro che la perdita del lavoro è un dramma, ma è un ulteriore dramma la solitudine e la mancanza di quello che noi vediamo da qualunque forma, in qualunque settore, la mancanza di contaminazione, cioè di vedere che cosa stanno facendo altre persone anche di altri settori. E in questo senso lo dico perché ho criticato la frase del ministro Poletti per come è uscita, per come l'ha detta, per tutto. Se il senso era che la relazione sociale, l'abbiamo chiarito già a suo tempo, è una qualcosa che ti aiuta poi a scoprire opportunità, a capire dove vanno i settori, a ascoltare idee nuove, certo che è fondamentale tanto quanto andare a mandare il curriculum. La frase di Poletti era uscita male, malissimo, e delle volte anche rimedio peggiore del danno. Allora, vabbè, Barigioni Marchettaro, ma questo va bene, per paradosso anche con le mie tasse si investirà su Industria 4.0, io a causa della robotica perderò il posto di lavoro, pago le tasse per autolicenziarmi. No, guardi, non è proprio così, e comunque ripeto, cioè, una volta che abbiamo fatto questa analisi, o uno si inventa qualcosa, cerca di reagire, se no che cosa fai? Se il mondo va verso una robotizzazione, non è che blocchiamo il mondo sulla robotizzazione. E per quello che riguarda invece l'accusa di essere, mi stanno arrivando insulti perché avrei fatto una battuta contro una squadra di calcio, mi abbassate questa base per favore, non so più come dirlo, grazie. Avrei fatto un'accusa alla squadra di calcio, no, guardate, la mia squadra è in B, figuratevi se mi metto a attaccare le squadre di altri, figuratevi se lo faccio a Torino, e non vi dirò nulla di più, se no ce l'abbiamo Napalm, dammi Napalm. Chiedo, lei è andato a donare sangue? Stavo per andare a donare sangue. Ah. Solo che la lobby del Big Pharma mi ha messo il prelievo alle 8 del mattino. Ma che lobby? Bastardi, è un complotto per non farmi donare il sangue. Ma non è un complotto, solo perché... Ma! No, ma... Bisogna far la spesa, alzi le chiappe o moriamo di fame! Oh, là, ogni tanto mi ritiro su. Andiamo sul traffico e poi vorrei sentire invece da un settore come il co-working... e quindi del tutto contemporaneo, uno dei settori più tradizionali del nostro Made in Italy, il marmo, che anche per lei che cosa ha appreso e qual è il rapporto che si sta creando in questa difficoltà, ma che non vuol dire però rinuncia. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta Focus Economia. I wanna be free. Allora, Paolo Carli, amministratore delegato di Hanro, gruppo di Massa Carrara, immagino, parliamo di marmo, in Versilia, esattamente a Querceto di Seravezza, vicino a Forte dei Marmi, vicino a Carrara. Fa più figo dire così, però sempre no, Massa Carrara. No, perché non volevo... Ho un'identità importante. Perfetto. Su quel territorio la difendo. Perfetto, ci mancherebbe. Questo è un paese di territori, c'è anche la banca dei territori. Certo. Che cosa ha imparato oggi e soprattutto, visto che lei lavora in un settore maturo, che non vuol dire decotto, vuol dire maturo, qual è il nuovo rapporto che lei ha creato con il mondo bancario e anche con la necessità, appunto, di quello che dicevamo prima, di avere credito per medio termine? Ma il rapporto viene indubbiamente su una base moderna, attuale, fatta su business plan quinquennali, però è un rapporto che viene da una storia. L'errore è una storia del 1821, la mia è una storia di terza generazione della famiglia che è nata dal marmo, quindi la banca è sempre stata la banca importante, la banca con cui l'azienda e la famiglia ha sempre dialogato con la chiarezza, con la trasparenza e con l'onestà. Quindi questa è la base oggigiorno ancora valida e attuale e necessaria per ottenere credito e andare avanti nelle sfide mondiali. E sono dei fondamentali necessari anche per andare nel mondo, per farci conoscere. La trasparenza nel rapporto con i clienti è fondamentale, il comunicare con i clienti. Io oggi sono qua e ho scelto veramente il percorso della comunicazione, perché credo che sia fondamentale oggi comunicare quello che sappiamo fare in Italia senza piangerci addosso troppo. Io ho visto dei messaggi qua, anche quella sulla robotica, io sono inorridito, perché io degli ultimi 5 anni ho investito tutti sui centri numerici e robotica avanzatissima e non ho licenziato nessuno, anzi sono alla ricerca continuamente di giovani che sappiano dialogare con queste macchine meravigliose che ci fanno essere puntuali, precisi, competitivi con una qualità eccellente. Voi considerate che io col mondo dell'arte la mia ricerca e sviluppo la faccio con gli artisti. Un artista che viene da me, mi dà un bozzetto e io gli realizzo un'opera, è per me un grande vantaggio di comunicazione prima, ma di far crescere anche un management adeguato a vincere le sfide mondiali, perché da un pezzo, fatto in una maniera molto veloce e rapida, un domani si possono realizzare centinaia di pezzi con la stessa velocità e quindi creare un valore aggiunto incredibile. Quindi è fondamentale oggi il rapporto con la banca, che sia come quello che Intesa oggi ci ha fatto respirare in questo contesto innovativo. Ho sentito giovani come la startup qui e altri che mi hanno fatto veramente emozionare, perché hanno uno spirito comunicativo estremamente dinamico, forte, con i tempi. E più ho avuto la possibilità di dialogare con altri imprenditori, ho incontrato qua il mio amico Maurizio Riva, un grande il re del legno, con cui ci scambiamo relazioni e scambi anche in ambito di lavoro, di design e di arte. Quindi è veramente una piattaforma che dà la possibilità ad imprenditori giovani e meno giovani come me di interagire e di relazionarsi. Ogni tanto qualcuno con un po' di ottimismo, senza che l'ottimismo diventi ottimismo di maniera, lo dico tranquillamente. Comunque non si può neanche continuare a darsela, diciamo, sulla parte più riproduttiva del corpo. Andiamo sulla borsa, più 0,30% prima della chiusura, più 0,40% Parigi, più 0,44% Francoforte e invariata Londra, mentre l'America guadagna lo 0,30%, poco mossa oggi la borsa, come sentite. Tenaris più 3,60%, Buzzunici più 3,30%, Prismian più 1,50%, Saipem più 1,30%, Eni più 1,32% dopo che Descalzi, il numero uno, ha detto che verrà formata una società per il business del retail. Sale Saipem dopo che ha collocato un bond da 500 milioni di euro. Sul fronte opposto Piaggio soffre per i possibili dazi USA, ne parleremo più avanti nella seconda mezz'ora. Biperbank meno 1,35%, Poste meno 0,80%, peggior titolo Edge Capital meno 13%, Stefanel meno 7,60%, miglior titolo Friendly Energy più 29%, Bioera più 19%. Adesso c'è il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Sono Giorgio Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Giorgio Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dagli studi di Radio 24 qui a Torino. Abbiamo parlato fino a poco fa Sharing Italy e quindi anche, insomma, qualche notizia positiva ogni tanto sul credito bancario alle imprese. Vedo molti messaggi, so che, insomma, non è che la media rischia di essere una media di trilussa, ma insomma il dato di fatto, appunto, è che il credito medio lungo è ripartito. Poi che questo sia ripartito per tutti o come media statistica, mi rendo conto, vedo molti messaggi di, insomma, scetticismo, di critica, ma attenzione, insomma, non è che la singola situazione individuale possa essere rappresentativa per la collettività. Noi usiamo i dati aggregati per questo motivo. Della borsa abbiamo detto, ma relativamente alla borsa c'era una notizia che avevo anticipato, e quindi il tribunale di Trani contro Standard & Poor's e la 5 tra analisti e manager di Standard & Poor's e la stessa società di rating. La procura di Trani aveva chiesto la condanna a 2 anni perché per manipolazione del mercato, ossia gli imputati che si chiamano Devin Sharma, all'epoca presidente mondiale di Standard & Poor's, erano stati chiesti 2 anni. A 3 anni erano stati chiesti per Jan Le Pallec, responsabile per l'Europa, e per gli analisti di debito sovrano Elin Zhang, Franklin Crowwood Gill e Moritz Kramer. Per la società Standard & Poor's era stata chiesta la condanna alla sanzione di 4.600.000 euro. Qual era il capo di imputazione? Erano accusati gli imputati di aver fornito intenzionalmente ai mercati finanziari tra maggio 2011 e gennaio 2012, ricordate lo spread che va a 560 punti, poi le dimissioni del governo Berlusconi, dicevo, di avere fornito intenzionalmente 4 report, 4 analisi contenenti informazioni tendenziose e distorte sull'affidabilità del debito italiano, del nostro credito, e anche sulle iniziative di risanamento adottata dal governo per disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico italiano e deprezzarne così il valore. Una manipolazione artata, cioè non un'analisi normale, ma in maniera intenzionale. Questa è l'accusa, quella è richiesta del PM. Sentiamo la sentenza di oggi del giudice Trani. In nome del popolo italiano, il Tribunale, letto l'articolo 530,2 del Codice di Procedura Penale, assolve gli imputati Jan Le Pallec, Aylen Zhang, Franklin Crawford Gill e Moritz Kramer dal reato di manipolazione del mercato aggravato con riferimento ai fatti del 13 gennaio 2012, perché il fatto non costituisce reato. Letto l'articolo 530 del Codice di Procedura Penale, assolve i predetti imputati dalle residue imputazioni perché il fatto non sussiste. Letto l'articolo 530 del Codice Procedura Penale, assolve l'imputato Devin Sharma dal reato di manipolazione del mercato aggravato con riferimento ai fatti del 13 gennaio 2012 per non aver commesso il fatto e dalle residue imputazioni perché il fatto non sussiste. Quindi tutti assolti, l'abbiamo fatto ascoltare per esteso volutamente, tutti assolti, il fatto non sussiste, sconfessata la linea del PM. Raffaella Calandra, immagino che poi questo lascerà spazio a polemiche anche di carattere politico, ecco che la grande agenzia di rating, ora lo dico a chi scrive, noi abbiamo sempre criticato l'agenzia di rating per un aspetto, cioè che tu non puoi fornire un voto al cliente che ti paga per questa analisi, perché il conflitto di interesse è molto alto, così come la partecipazione societaria ci lascia delle volte perplessi, e da sempre si è detto, attenzione, è l'Europa che ha regalato o affidato l'agenzia di rating questo ruolo fondamentale quando ha messo anche i criteri per l'affidabilità bancaria e quant'altro, e non ha saputo creare la sua un'agenzia di rating europea e non a partecipazione con grandi fondi di investimento americani come sono sia Standard & Poor's che Moody's. Però altra cosa è dire che è stata volutamente manipolata l'analisi. Raffaella Calandra, che cos'è che non ha convinto il giudice? Diciamo che non ha convinto l'intero impianto accusatorio, è stata una doppia bocciatura, perché erano 2 i procedimenti, uno per Standard & Poor's, l'altro per Fitch, c'è stata una doppia bocciatura e tutti sono stati assolti. In sostanza, per il tribunale non era vero che quei report, che sono soprattutto questi messi sotto accusa, fossero stati compilati e mandati al mercato con il chiaro intento di alterarne appunto l'andamento, e soprattutto sulla base di informazioni che i PM avevano valutato false, infondate o imprudenti sulla tenuta del sistema economico, finanziario e bancario, come ricordavi. In un caso era stato contestato anche il fatto che fosse stata criticata la manovra finanziaria ancor prima che ci fossero i dati ufficiali e che questi report fossero stati diffusi anche a mercati aperti, ma il tribunale non crede a tutto questo, e devo dire che scetticismo intorno intorno a questa inchiesta c'era stata fin dall'inizio, tant'è vero che anche alcune istituzioni che avrebbero potuto costituirsi parti civili come Consob e Banca d'Italia non l'hanno fatto. Polemiche, gli ascoltatori... Ecco, però era stata una vicenda molto segnalata questa, un'iniziativa molto segnalata, la piccola procura di Trani contro, esatto, i giganti, diciamo, dal punto di vista delle agenzie di rating, quindi la capacità di influenzare mercati, giudizio su soggetti fisici e addirittura stati sovrani. Ma dico, perché tu giustamente parli di una doppia sconfitta, che cos'è, diciamo, che è risultato fragilissimo nell'impostazione del PM? Adesso chiaramente non è una, diciamo, una risposta di comodo, ma bisognerà leggerlo nelle motivazioni, certo, il ragionamento che hanno fatto i giudici. Però ecco, la soluzione in formula piena, cioè il fatto non sussiste, significa che non esiste quello che i PM contestavano, quindi non è vero che c'erano informazioni false, infondate o imprudenti all'origine di quei report e quindi poi del declassamento dell'Italia, che, come ricordavi, aveva portato poi all'impennata dello spread, alla caduta del governo Berlusconi e tutto il resto. C'erano state anche moltissime polemiche proprio sulla ragione che fosse questa piccola procura Trani, così lontana, sì, dai centri anche del potere economico, ad occuparsi di questa vicenda, e questa è stata una delle cose che il PM ha più rivendicato. Oggi è andato in aula anche con la bandiera con la cravatta, con la bandiera tricolore. Cioè, cosa ha rivendicato il PM? Il fatto di essere stato il primo e l'unico a descrivere. Sì, vabbè, adesso le cravatte uno può scegliersi come vuole, però se uno fa il PM, fa il PM, non è che giochi nella nazionale di calcio. E tra l'altro, attenzione, perché poi il rischio che invece dell'accusa di protagonismo dei PM quando la procura di Trani si mette a ragionare su come le agenzie di rating danno giudizi e manipolano il mercato, insomma, vabbè, meglio che stia zitto. Grazie intanto a Raffaella Carandra, andiamo sul traffico. Focus Economia. Pour me a taste of something good. E allora, ultima parte di Focus Economia qui da Torino, dal grattacielo di Intesa San Paolo a Torino, dove affrontiamo un tema che, insomma, sta agitando molto il mondo della carne e il mondo alimentare italiano. Perché? Perché, come già i nostri GR24 vi hanno raccontato, l'amministrazione americana, secondo quanto scrive Wall Street Journal, sta studiando a questo punto una serie di dazi punitivi fino al 100% per 90 prodotti europei come ritorsione contro l'Unione Europea, che a giudizio degli allevatori di bovini americani non ha aperto abbastanza i propri mercati alla carne americana. Apparentemente la polemica riguarda la carne trattata con gli ormoni, che è proibita in Italia e in Europa, scusatemi. Tra l'altro, il settore dell'export carni è cruciale per gli Stati Uniti, impiega 50.000 lavoratori, vale 6 miliardi l'anno e ha un indotto di 7 miliardi e 600 milioni. Qual è il problema? È che nella lista di prodotti made in UE che verrebbero colpiti c'è anche la Vespa, quindi prodotta dalla Piaggio e colpisce direttamente l'industria italiana, ma colpirebbe anche altri due costruttori di due ruote, la KTM austriaca è una di quelle indicate, ma poi vi sarebbe un pedaggio del 100% anche sull'acqua Perrier, quindi la Nestlé, e il formaggio francese Roquefort. Il problema è che quello che ha annunciato, quello che ha anticipato Wall Street Journal, è che Trump punterebbe ad avere dazi a rotazione, nel senso che non vi sarebbero poi solo le due ruote, ma a rotazione nei vari settori, tra cui anche il settore delle specialità agroalimentari italiane. Ora, l'anno scorso l'Italia ha esportato come settore agroalimentare negli Stati Uniti quasi 4 miliardi di euro di controvalore di merci, rispetto ai 3 miliardi e 6, sono 3 miliardi e 9, e da questo punto di vista siamo a un rialzo del 5, quasi 6%. Le importazioni di agroalimentare statunitense sono invece calate di quasi il 13%, da 1 miliardo e 100 milioni a 975 milioni. Ora, la dico molto semplicemente, ma siccome il settore agroalimentare, insieme ad altri, è stato uno dei pilastri del nostro aumento dell'export in questi anni, e siccome già deve scontare il settore agroalimentare le pesanti conseguenze dei dazi e controdazi con la Russia, ci mancherebbe solo che venisse coinvolto in, anche in queste forme di ritorsione. Però vorrei capire come si è arrivati, diciamo, a una esasperazione di una contrapposizione che esiste ormai da mesi, non è una novità, non è, ne abbiamo parlato e detto già due mesi fa, e lo chiedo al presidente di Federalimentare Luigi Scordamaglia. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti. Ecco, ricordo che Federalimentare raggruppa 54.000 aziende, 390.000 addetti, l'export assegnato del nostro settore agroalimentare complessivamente dato, non solo verso gli Stati Uniti, chiaramente 38 miliardi, un nuovo record, più 3%, complessivamente il nostro settore agroalimentare vale 135 miliardi di euro. Ora, Scordamaglia, è chiaro che rispetto a queste cifre la quota americana è importante, siamo intorno al 10% di tutto l'export del settore agroalimentare italiano. Però vorrei capire, c'è un po' di confusione, ma gli Stati Uniti vorrebbero poter esportare in Europa carne trattata con gli ormoni, e di quale qualità, quantità stiamo parlando, mi scusi? Allora, assolutamente no, gli Stati Uniti non hanno mai chiesto di esportare carni con gli ormoni verso l'Europa, anche perché l'Europa non lo avrebbe mai consentito. Proprio per questo motivo, già alcuni anni fa, il WTO ha condannato l'Europa dicendo: bene, non vuoi importare la carne con gli ormoni, gli Stati Uniti la producono solo per l'Europa, hormone free, ma per compensare il danno devi concedere una quota di importazione a dazio zero di carni senza ormoni, perché di questo si parla, questo è molto importante, non è mai stato discusso né richiesto che carni con ormoni entrino in Europa e nessuno lo accetterebbe. Purtroppo la gestione di questa quota, che è stata data per compensare il danno che gli Stati Uniti subivano e dopo la condanna del WTO, è stata fatta male da parte dell'Unione Europea, cioè una quota di compensazione che non era così... Di quanto stiamo parlando, Scordamaglia? Stiamo parlando a regime di 45.000 tonnellate, che sono in realtà molto poco rispetto alla produzione europea, di carne, ripeto, hormone free. Cioè senza ormoni. Carne senza ormoni. Purtroppo, dicevo, gli Stati Uniti, l'Unione Europea ha concesso, ha fatto accedere a questa quota che nasceva come compensazione per gli USA, tutta una serie di paesi terzi, dal Brasile all'Argentina, all'Australia, alla Nuova Zelanda. Quindi, al di là delle cacce alle streghe, può stare simpatico o non simpatico Trump, in questo caso ha ragione e rivendica un suo diritto di avere una quota compensativa dedicata. Se la ottiene, e Bruxelles non avrebbe problemi a dargliela, il problema della retaliation, che come dicevate voi, di queste misure fortemente penalizzanti, cioè non si può confrontare il danno enorme che deriverebbe dal 100% dei dazi eventualmente imposti dagli Stati Uniti rispetto a un danno molto molto molto più contenuto che si avrebbe invece se venisse concessa, come legittimamente il WTO ha detto a Trump, questa piccola quota di carni, ripeto, senza ormoni. Quindi ancora una volta noi rischiamo di pagare le conseguenze di un'Europa che non ha saputo o voluto gestire il problema. Allora, secondo me mi faccia capire perché mi sto perdendo quasi. Cioè lei mi sta dicendo che intanto queste 45.000 tonnellate sono tutte di carne senza ormoni, quindi non trattata con gli ormoni come hanno scritto alcune agenzie oggi. Ed è un primo punto importantissimo, perché in Europa, lo dico anche quando ci furono le polemiche sull'accordo CETA con il Canada, non può entrare la carne con gli ormoni, punto. Esatto. Allora, gli Stati Uniti avevano avuto come accordo una quota di 45.000 tonnellate per tutta l'Europa, certo, come compensazione per il fatto che non gli blocchiamo la carne con gli ormoni, e quindi potevano esportare queste 45.000 tonnellate di carne all'anno senza ormoni a compensare il fatto che gli blocchiamo il grosso della loro produzione, perché gli ormoni sono legali negli Stati Uniti e quindi il grosso della loro produzione è carne con ormoni, che per inciso si possono tranquillamente tenere. Certo, però, non solo sono legali negli Stati Uniti, ma il WTO nel contenzioso tra Stati Uniti e Europa ha condannato l'Europa che non era riuscita a dimostrare in sede di WTO scientificamente un danno effettivo da carne con gli ormoni. Però, vabbè, però io non ci tengo ad avere la carne con gli ormoni americana. Il punto mi sembra un altro, però Scordamaglia, mi scusi. 45.000 tonnellate, quanto sono rispetto, diciamo, alla massa critica europea nella produzione di carne? Ma stiamo parlando di, faccia lei, stiamo parlando di 8 milioni di tonnellate di produzione europea, capisce che sono molto poche. È molto indirizzate verso un certo tipo di ristorazione, quindi 40.000 su 8 milioni di tonnellate, quasi nulla di produzione, è una percentuale assolutamente minima. Ecco, e lei dice gli Stati Uniti si sono irritati perché questa quota di 45.000 tonnellate che noi avevamo promesso come europei fosse di pertinenza loro, ripeto per la terza volta, di carne senza ormoni, noi in realtà l'abbiamo aperta anche a Argentina, Brasile e altri paesi? Esattamente, cioè la Commissione europea, perché spetta la Commissione europea disciplinare l'utilizzo e l'accesso di queste quote, è stata più realista del re, ha deciso che per motivi di commercio internazionale era più equo far accedere a questa quota a tutti quanti, per cui gli Stati Uniti si sono trovati a non poter di fatto utilizzare o a utilizzare in maniera assolutamente minima una quota che era stata data a loro compensazione. Quindi Trump ha rivendicato di nuovo il diritto ad avere queste quote e ha, in caso contrario, minacciato queste sanzioni pesantissime, come dico, in termini di volume e di valore economico rispetto invece all'ingresso della carne ad aggio zero. Allora, senta, secondo me, però da come la capisco io, in realtà la soluzione potrebbe essere anche abbastanza alla portata, nel senso che se l'Europa garantisse che 45.000 tonnellate di carne sono senza ormoni, sono di pertinenza solo americana, eviteremmo dazi al 100% su motocicli anche italiani, sui formaggi francesi e a rotazione sui prodotti alimentari anche italiani. È 6 mesi che proviamo a spiegare questa cosa alla Commissione dicendo fatelo prima che Trump metta in atto dalla minaccia alle misure effettivamente di dazio, ed è 6 mesi che la Commissione come al solito dorme. Sì, devo dire che il direttore di Assocarni, Francesco May, ha detto che insomma Assocarni, che vuol dire per noi in Italia 32 miliardi di fatturato, il 2% del PIL italiano e 125 mila persone che ci lavorano, con buona pace di chi non ama la carne, ne ha tutti i diritti, ognuno si sceglie la dieta che vuole, però poi è anche importante ricordare che questi sono settori produttivi, non è che si possono fare battaglie solo ideologiche. Ma dicevo, Assocani dice che è dai tempi, quando c'era ancora Obama, che chiediamo all'Unione Europea di trovare una soluzione. Sì, infatti il problema era ovvio che venisse fuori, era scontato, Trump lo ha accelerato. Ripeto, la soluzione c'è, è molto tecnica, non è politica, se poi si vuole trasformare in un casus belli, ma ripeto, è l'inadempienza e l'incapacità ancora una volta di decidere della Commissione che ci ha portato in questa situazione e che vedrebbe l'Italia, probabilmente forse insieme alla Francia, non so, ma soprattutto l'Italia, colpita da misure di cui non ha responsabilità, perché l'Italia non può gestire da solo una quota che viene invece gestita a livello europeo. Non ho battuto perché sto chiudendo il programma, i tempi quali sono a questo punto? Se la Commissione decide si potrebbe tutto risolvere a brevissimo. Se, come credo, avvieranno una lunghissima consultazione, ci dovremo confrontare con qualche mese, con delle cose che ci faranno molto male. Lei citava i motocicli, ma ci faranno male anche nel settore alimentare, perché gli Stati Uniti non solo sono importanti, ma crescevano ad una percentuale più alta di quasi qualsiasi altro mercato terzo di esportazione. Quindi mi auguro che vogliono fare una modifica del genere, si fa in molto breve tempo. Grazie, non capisco appunto quali siano gli interessi, forse perché non tocca a loro, grazie, tocca ai paesi del nord Europa in questo caso. E grazie intanto a Luigi Scodamaglia, presidente di Federalimentare, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Mauro Del Corno anche e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Noi torniamo domani in diretta, chiaramente dagli studi di Milano, e grazie anche per questa opportunità che abbiamo avuto di conoscere sul campo i rapporti tra piccole e medie imprese e mondo bancario, quindi Sharing Italy, di cui sentiremo parlare anche nei prossimi giorni nel Palinsesto di Radio 24. Domani. Radio 24, libera la voglia di fare.